fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui, le 2:10 del mattino, bentornati su Ristoradio Convento, bentornati sulla nostra web radio, dove si trova lo spazio per raccontarsi e per raccontare. Chi vuole può venire qui a scambiare due chiacchiere, a raccontare un po' della propria serata e della propria vita, come il caso di queste ragazze che è stato difficile trattenere fuori dagli studi perché proprio ci hanno invasi, non vedevano l'ora di entrare qui, soprattutto la Gloria, la protagonista, che ha detto devo entrare, non posso stare fuori, non posso stare lontano, e quindi le abbiamo dato questa possibilità, visto che veramente dalle 9 di stasera che ci diceva devo entrare, è giusto, confermi? Assolutamente sì. Non vedevi l'ora? Assolutamente. E confermi che è stata tutta una tua scelta, cioè è stata volontaria, non ta... Super spontanea, bellissimo. Mi piace quando c'è della sincerità e soprattutto attenta che si stanno uscendo i 50 euro dalla tasca. Quindi mi raccomando, tienili nascosti. Allora, benvenuta Gloria intanto. Grazie. Allora, da dove vieni? Da Reggio Emilia. Oh, Reggio Emilia, quindi stasera sono popolatissime Varese e provincia, Emilia e provincia, cioè Reggio Emilia, Parma, Modena. Quindi gettonate, e noi facciamo una sorta di bilancio anche geografico a fine serata di chi ci è venuto a trovare. Allora, Reggio Emilia, cosa festeggi con noi questa sera? Il mio addio al nubilato. Il tuo addio al nubilato, vedo che le tue amiche, le tue colleghe, non so, l'hanno presa molto bene per come si sono vestite, tranne lei che è contentissima, le altre sono tutte vestite a lutto e quindi sono entusiaste, e poi capiremo perché lei è felice. E sta con tutto, come si dice. Quindi confermate che siete felici e entusiaste? Oh, bene, mi fa piacere. E quando succederà il lieto evento? Il 9 settembre 2018. Il 9 settembre, aspetta un attimo. Io amo le donne di Reggio Emilia, molto bene, concordiamo. Reggio Emilia nel cuore, sempre e dovunque. Sappiate che lo dice a tutte quelle che passano, di qualunque città e provincia. Però, insomma, è sempre sincero, quello sì. Però è sincero col 98% della popolazione femminile che risiede più o meno in tutta Italia. E no, è bello così. Quindi dicevi, scusa, ricorda... No, 18. Esatto, ne parlavamo prima con... Con Damiano. Con Damiano, ecco, torniamo sul discorso numerico. Quanto è stato pensato e voluto, quanto è stato casuale? Pensato e voluto. Ah, pensato e voluto. Da quanto? Da quando me l'ha chiesto. Che è successo? Avevo già deciso la data. Che è successo quando? Un anno fa. Quasi, ok. Mi piace perché quando io c'ero, perché l'ho vista la dichiarazione, Damiano mi hai detto? Sì, ok. Damiano gliel'ha chiesto e le aveva una giacca con su una svastica in cui ha detto 9-9, vero? E lui sì. No, non avrei il giorno dopo, dai. Ah, il giorno dopo gli ha dato addirittura 24 ore perché ha detto vabbè, respira per le prossime 24 ore, ti do questo diritto. E poi però, no, scherzo. È bello comunque anche legarsi a un numero, legarsi a un momento, legarsi a una data. Sì, quello sì. Poi ti dico, il 99 e anche il 99 è il suo numero, quindi non è... Gioca a calcio? A football americano. Ah, football americano. Sì, di football. Che tra l'altro nell'Emilia mi dicono va forte. C'è una buona tradizione di football americano, rugby di quella zona. C'è una squadra che va abbastanza bene, sì. Sì? Tra l'altro, vabbè, ne parliamo dopo, perché forse abbiamo conosco una... Sì, no, conosco... No, non conosco gli altri giocatori. Ah, ok, no, conosco un ragazzo che lo fa, magari, lo conosco. Okay. Va bene, quindi football americano, che ruolo ha, se lo sai? te la semplifico. Corre o tira? Difesa. Difesa, quindi mi picchia. Mi aiutano dalla regia. Quindi picchia forte. Da quanto lo pratica? Più di 10 anni. Più di 10 anni, quindi è iniziato, non dico da bambino, ma quasi. Sì, andava al liceo, 15 anni. Al liceo, sì. Ecco, se posso chiedere, se lo sai chiaramente, come mai il football americano e non il tradizionale calcio? Cioè, è come uno che dice cosa suoni la tromba. Cioè che tutti vanno sulla chitarra, invece uno sceglie, come mai sta perché fissa? Perché era molto robusto di costituzione e quindi era il suo sport. Ah, va da sé. Ma sì. Segue anche le partite o è solo una passione personale? Sì, intanto lo trovo di notte a seguire le partite in America. Perché la fregatura è quella. Sì, è quella. Esatto. Ma tu hai capito le regole del football, che è difficilissimo. Avevo suo padre che me le spiegava di partita in partita. Ah, perfetto. Tra l'altro lei è interessatissima tipo così. disperata a ascoltare, che sia, cioè sai quando ti si intravellano gli occhi. Sono partite lunghissime tra l'altro quelle. Sì, no no, sono molto lunghe, però è molto affascinante come sport, ma deve essere capito, perché sennò non c'è, sei persa nel nulla. Quindi 9918, che è una data che immagino rimarrà, ma anche legata a qualcosa del passato come simbologia numerica, o avete solo colto l'occasione del calendario? No, ho colto l'occasione del calendario. Quindi non hai associazioni col 9, col 3, col... Ti dicevo, il 999 è il suo numero di football, e no, per il resto... Perfetto, perfetto, però come dicevo è sicuramente una data che rimarrà nel calendario. Quindi chi c'è qui con te? Dai, presentaci un po' anche le tue amiche, che ci piace anche sapere chi ti circonda. C'è Silvia, un'altra. Ciao. Silvia, due Silvia abbiamo. Okay, le riconoscete perché una è in pizzo e l'altra... No, ah scusa, è lei, è quella felice. Silvia è quella felice, la Silvia felice. E come mai Silvia è così felice? Sarà mica cugina dello sposo, tipo, no? No, perché l'altra Silvia è già sposata e Una Silvia si deve ancora sposare, quindi forse più quindi certo, oppure cioè rimane sul mercato, invece lei si è messa a lutto perché dice vabbè, io ho già dato, ho già finito, quindi non mi pigliate più, mi pigliate più. Quindi se cercate una Silvia nella vostra vita, cercate una con la maglia bianca, questo è quello che vogliamo dire, portare a casa da questi minuti insieme. Poi abbiamo Margherita in pizzo. Beh, giustamente, per mantenere la tradizione del suo nome. Poi abbiamo Carlotta. Ok, Carlotta che è là dietro. E qua di fianco Veronica. Veronica, tutte, ciao, benvenuta. E tutte amiche, colleghe, che rapporto hanno con te? Amiche, e sono tutte le morose dei migliori amici del mio ragazzo. Eccolo qua, lo sapevo, mi metto seduto. E io con le parentele alle 2 di notte faccio schifo. Allora, sono tutte le morose e mogli. E mogli, vabbè, comunque compa, dei migliori amici degli amici di infanzia del mio ragazzo. Ok, quindi si è creata una compagnia allargata. Bravo, sì. Giusto, sì. Ci sto arrivando piano piano, sto lavorando. E beh, è comunque bello che dal nulla, perdonatemi, perché comunque c'è, immagino ci fosse del nulla tra di voi, sì, in un certo momento della vostra vita, ci sia creato un legame così forte, tale da far sì che foste invitate e coinvolte in questo bel momento. E come mai si è creato questo legame, tra l'altro con così tante persone, perché 6-7 persone è difficile creare legame con tutte. Cosa vi accomuna? Al di là l'obbligo iniziale di passare insieme del tempo causa mariti e fidanzati. Ci troviamo bene insieme, ci vediamo anche senza i nostri fidanzati. Ok. Anche al di fuori o far serate tra di noi, mm-hmm, senza che obbligatoriamente ci siano anche loro. Ok, da quanto vi conoscete? Allora, io sono tra le ultime arrivata, quindi da 6 anni ci sono. E ti hanno fatto il rito di iniziazione, dispetti, bullizzata, lo schiaffo del soldato sul ponte, no? No, grazie al cielo no. State buone. Ci sono coppie che stanno insieme da 12-13 anni. No, però, anni, però, complimenti. Per quello siamo in lutto. Ah, sono in lutto, sì, è il tempo che passa, è giusto. Va bene, e come passa, visto che avete detto che fate anche delle uscite voi, come passate il vostro tempo libero? Non lo sa, ma tu partecipi, no, o sei al telefono e... Stava pensando se poteva dirlo prima. Ah, ok, chiaro. No, non sapevo se la Gloria magari stava al telefono e si faceva raccontare la serata. No, ci sono anch'io, partecipo. Ok, bene. No, ci troviamo, facciamo delle chiacchiere, le cose da donne. Le cose da donne, allora. Giusto, va bene. Pigiama party, c'è ancora... La tisana, sì. La tisana, il tisana party, quanto mi diverto, la tisana party. Mamma, vorrei partecipare a 4-5 settimane di tisana party, non vedo l'ora. Invitiamo. Volentieri, io non, guarda, mi farei 150 Abbiamo chilometri. Una scelta di tisana infinita. Sì? Qual è quella che va di più? Scusa, cioè, stiamo veramente parlando di tisane alle 2:20 di un sabato notte. Ho avuto un attimo di lucidità nella mia follia. Dici. Letto, no, fa. Perché cioè, comunque prendi la cosa per quello che è, cioè come un dato matematico e scientifico, parlare di tisane alle 2:20 di un sabato notte è follia. Però è per quello che ci piace. Quindi qual è la più interessante, la più quotata? Con lo zenzero, direi. Ah, zenzero e limone. Quest'anno va molto moda. Sì, quando non va fuori. Cioè, renditi conto che siamo arrivati a fare. Perché ho visto questa pubblicità, o comunque l'annuncio su internet. La tisana del 2018 è zenzero e limone. Sì. Quando negli anni 80 si parlava di pantalone a zampa, scarpe col tacco, ci siamo ridotti a fare le pubblicità su la tisana del 2018 è zenzero e limone. Mamma mia, veramente, è cambiato tutto. E quante volte riuscite a vedervi come gruppo voi? Due, tre settimane? No, quante? Dai, siamo su una settimana. Ah, una settimana, però ve la tenete, cioè riuscite a tenervi una sera settimana fissa solo donne? Ci proviamo, a volte siamo solo noi, a volte siamo con i ragazzi, dipende. Vabbè, però insomma riuscite a ritagliarvi del tempo, molto bene, molto bene. Allora, in chiusura volete salutare qualcuno? C'è qualcosa che volete dire? Dai, salutiamo i ragazzi che stanno festeggiando l'addio al celibato di Damiano, sono in Riviera. Ah, insieme, sì, ok. In contemporanea. Loro sono a Riccione, quindi sono rimasti più o meno indigeni, invece voi siete espatriate. Esatto. Però l'acqua c'è da entrambe le parti. Esatto. Beh, Riccione anche quello tradizionalissimo per queste feste. Bene, allora immagino, vabbè, salutate ognuno il rispettivo, magari salutate un altro, nel senso incrociate i dati e vediamo che succede. Va bene, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, o meglio un buon fine serata e un buon divertimento qui da noi. E a presto, e speriamo che la Silvia, giusto? No, Silvia venga anche l'unica non accoppiata. No, si è accoppiata. Ah, allora, non avevo capito. Ah, non è sposata. Allora speriamo che alla Silvia venga fatta una dichiarazione a brevissimo. Sì! Vediamo! Poi ti riduci così, io te lo dico, preparati, che poi ti riduci così. E sono fatti tuoi, Poi vedi come ti cambia l'armadio, un attimo. Cioè tu hai un armadio a fiori e giorno dopo, brum, nero e blu. Però nero piace. Il nero, bene, è già lì, ha già voglia di dichiarazione, sente già il profumo d'altare. Brave, mi fa piacere. Allora dai, buona serata ancora, grazie di aver giocato con noi. A presto, ciao!